Da un po' di tempo in qua il telefono di casa, cui peraltro non ho mai guardato con eccessiva simpatia, si è trasformato in uno strumento di tortura. Sarà che le linee sono sovraccariche, sarà che l'intera città è ormai una giungla di cavi, sarà che c'è qualche contatto, sarà che nel controllarmi il telefono i tecnici della polizia politica hanno pasticciato qualcosa, no? Sarà la vendetta di qualche impresa telefonica ai cui servizi ho rinunciato, sarà il risultato di quella condizione tipica condizione umana scaturita dall'associazione di inettitudine e progresso, non so, saranno gli extraterrestri, non lo so, ma fatto sta che il mio telefono suona nei momenti più inopportuni, suona spesso, suona a lungo e soprattutto suona dannatamente senza che dall'altra parte qualcosa che assomiglia ad un essere umano provi a parlarmi. Per lo più va così, giorno e notte, non da mesi, da anni. Ma nel frattempo la gamma dei flagelli extrabiblici si è arricchita di qualche unità. Ieri, infatti, ho ricevuto due messaggi vocali. Mi si invitava a schiacciare il tasto 1, ad ascoltarli e, sentendone prepotentemente l'esigenza, a rispondervi schiacciando un altro tasto. Nel primo messaggio una voce femminile mi diceva: dove sei finito, Cipollino? Mentre per tutti gli amici da un certo momento in poi Carlo Marx era il Moro, anni prima, intorno al 1841, allorché l'innamorata Jenny gli scriveva, lo chiamava mio cinghialino o mio piccolo cinghiale. Gli animali vanno molto nell'ampio mercato delle investiture semantiche per i vezzeggi affettuosi. Dalle rubriche dei messaggi personali nei giornali ho ricavato scimmiottino, topo, passerotto, uccellino, lupacchiotto, pulcino, scoiattolo, grillina, micio, gattone, lama, che non oso pensare alle caratteristiche che hanno innescato l'investitura, ranocchio, pesciolino e perfino il non esaltantissimo pidocchietto. Gli animali vanno molto e comunque più dei vegetali e più dell'inorganico. Una cetriolina che piuttosto contro natura, anticipando di brutto gli organismi geneticamente modificati, si accoppiava con un anguillino, l'ho trovata in un messaggio del 28 gennaio 1978, e un polivinilcloruro che più nel timor di Dio si accoppiava con un poliuretano l'ho trovato in un messaggio del 15 luglio del 1977. Come in tutti i processi di metaforizzazione, anche alla base di queste categorizzazioni c'è la scelta di un particolare, un modo di fare, non lo so, un atteggiamento, un gesto, una postura. C'è la scelta di questo particolare e la sua valorizzazione nella persona amata. L'animale, soprattutto se oggetto delle nostre attenzioni domestiche, si presta bene a fungere da campionario. Può essere accudito, accarezzato, vezzeggiato, può essere educato, spadroneggiato. Ecco, e involontariamente allora rivela anche al mondo che in certi rapporti umani, che pure sembrano stupendi, qualcosa non va. Quell'amore di cui si tratta è vissuto in una dimensione di dipendenza, che l'uso e l'abuso dei diminutivi rendono ancora più evidente. Mentre Marx arringava le avanguardie delle masse operaie, sarebbe stato poco opportuno che sua moglie Jenny lo chiamasse pubblicamente il mio cinghialino, e infatti il Moro prese il sopravvento. Voglio dire che spesso il nomignolo ha una sua durata. C'è un momento in cui pare adatto, no? E all'improvviso capita il momento in cui cade. Guai ad usarlo più. O non ci se la fa proprio più, ecco, o non ci se la fa proprio più a categorizzare la persona amata come un tempo, o nel linguaggio, che magari da privato è diventato pubblico, nel linguaggio si sacrifica la vena del sentimento a quella delle convenienze sociali. E chi prende l'iniziativa di battere la moneta linguistica di un nomignolo non sa fino a quando questo potrà aver corso. Nonostante tutto il suo grande affare perché mantenga il proprio valore alto e a lungo. Così è la durata di un messaggio. Un messaggio che parte e non si sa, in definitiva non si sa se arriva. Come un messaggio affidato e abbandonato ad una segreteria telefonica o peggio ancora ad un gran motore immobile incaricato di raccogliere tutto da tutti e distribuire lungimirantemente a ciascuno. C'è una scommessa con la vita insita in questa pratica. Una scommessa che soltanto alla nostra protervia può sembrare sempre e comunque vinta. Il messaggio può arrivare allorché il destinatario è bello che è morto e sepolto, oppure allorché non è nelle condizioni più idonee per apprezzarlo, o infine il messaggio può arrivare allorché il destinatario, diciamo che non ha più le caratteristiche per essere tale. Come se il suo cipollino, anziché struggersi di nostalgia, stia passando da una carotina all'altra. Primo messaggio vocale allora mi diceva: dove sei finito, cipollino? Ed io mi sono ben guardato dal rispondere. Ho scosso la testa e imprecato in cuor mio contro la deboscia dei tempi, rappresentata al contempo dal telefono in quanto tale e da chi ne fa orrido uso fino all'abuso. Tuttavia, Qualche minuto dopo è giunto il secondo messaggio. Secondo messaggio dove la medesima voce femminile diceva: dove sei finito, cipollino? Ancora, pervicacemente, con una testardaggine degna di un novero ben più ampio di soluzioni espressive. Presuntuoso, fiducioso nel fatto che a nessun essere umano può venire in mente di chiamarmi cipollino, certo, voglio ben sperare di non frequentare nessuno che, potendo telefonarmi a casa, preferisce invece mandarmi un messaggino vocale registrato, non ho seguito ulteriori istruzioni e anche qui non ho risposto. Non riconoscendomici, nonostante nonostante la calvizie, nonostante il costituzionale pallore, nonostante le lacrime che possa aver ingenerato vita natural durante, nonostante insomma la paradigmaticità cipollinea, non riconoscendomici d'altronde, rispondendo, non avrei potuto far altro che peggiorare le cose per lui e per quell'altro ortaggio che ne pativa l'assenza.